Non so se vi sia mai capitato di seguire intenzionalmente o per caso una trasmissione televisiva di culinaria pratica. Una di quelle trasmissioni, cioè, in cui per la supposta gioia delle massaie in ascolto delle loro famiglie si mandano in onda delle ricette di piatti prelibati e le istruzioni per confezionarli. A me, per motivi non strettamente dipendenti dalla mia volontà, capita ogni tanto di assistere a quella che va in onda su Rai 1 un po' prima del mezzodì di tutti i giorni feriali. Ma mi sembra di aver capito che il modello, con le opportune varianti, si ripete su altri canali e in altre reti. E anche se voi personalmente soffrite di anoressia perniciosa, o mangiate sempre al ristorante, o non sareste in grado comunque di cucinarvi un uovo alla coque senza produrre disastri in mani, vi assicuro che non dovreste privarvi del piacere di visionarne uno ogni tanto. Lo spettacolo, per cominciare, è assolutamente affascinante. Si apre di solito con la visione di un banco carico di ogni coloratissimo ben di Dio, dietro il quale sono allineati sorridenti e impeccabili nelle loro livree immacolate due o più cuochi di ambo i sessi, professionisti in genere che si sono conquistati i galloni nei più rinomati ristoranti del paese. Accanto a loro, a fungere da tramite con la platea virtuale dei cucinatori in pectore, si agitano i conduttori della trasmissione, che sono immancabilmente una scemetta e uno scemotto. Vi assicuro che non intendo offendere nessuno, perché so che può darsi benissimo che i due professionisti in questione siano nella vita di tutti i giorni persone di alto sentire e dall'intelligenza affilata come un rasoio, ma lì non c'è santi, devono fare lo scemotto e la scemetta, per cui mi permetto per comodità di chiamarli così. E dopo un rapido scambio di convenevoli, tanto per far capire ai telespettatori che i tipi in grembiule e cappello bianco non sono gli ultimi arrivati, ma gente che nel loro campo conta non poco, si passa alle ricette. Dunque, chiede la scemetta tutta allegra, che cosa ci prepara di buono oggi? Beh, risponde benevolo il cuoco o la cuoca di turno, oggi abbiamo pensato di fare il timballo di verdura alla salsa mornay con le capesante. Oh, che bello, commenta la scemetta con una risatina a trillo, ma sarà tremendamente difficile. Ma che, la tranquillizza il cuoco, non c'è niente di più semplice. Poi impugna gli strumenti del mestiere e comincia la dimostrazione. Vede, dice, per prima cosa prepariamo il solito impasto con uova, farina, burro, un po' d'acqua e zacchete. Ti mostra un bel pane di pasta giallo oro che riposa sotto un tovagliolo ripiegato. Lo tiriamo bene sottile sottile, maneggia un paio di volte il mattarello in aria per far capire come procedere, e ne ricaviamo una sfoglia con la quale foderiamo una tortiera ovale. Ed ecco che davanti alla telecamera si materializza una splendida tortiera ovale di porcellana immacolata, perfettamente foderata di sfoglia, tutta sfrangiata ai bordi. Poi prendiamo, continua il cuoco, un po' di verdura, broccoli, piselli, patate, carotine, cuove di carciofo, radicchio rosso, fagiolini, insomma quello che troviamo, e la mettiamo nella tortiera. Così com'è? Chiede la scemetta. Ma no, spiega paziente il cuoco, prima la si fa saltare con un po' di burro, e la telecamera zooma in primo piano su una padella di rame in cui le verdure accuratamente tagliate a dadi stanno già rosolando, che è un piacere. Che profumino, si inserisce lo scemotto estasiato, perché non insegnate a mia suocera come si fa? È tanto facile, dice il cuoco, basta far andare tutto a fuoco lento, lento. Intanto prepariamo una besciamella, la solita besciamella con latte, burro, farina, magari un pizzico di noce moscata, zoomata su una pignatella di besciamella pronta da una parte. Vi incorporiamo due uova, un po' di parmigiano grattugiato, va bene solo il parmigiano? O si può usare anche dell'altro formaggio da grattugiare, chiede lo scemotto, per sentirsi rispondere che no, va bene qualsiasi tipo di grana, al che commenta che lì in televisione non si può fare della pubblicità a nessuno. Poi il cuoco, sempre seguito da una telecamera che mostra in primo piano i risultati del suo operare, ma non il suo operare, assume decisamente il contrario, il comando. Adesso spiega, travasiamo le verdure nella teglia. facciamo aprire le capesante su fuoco vivace, ne filtriamo l'acqua con un panno fine, la passiamo in un pentolino, la facciamo ridurre alla metà circa, l'aromatizziamo con cialfoglio, dragoncello e un mezzo cucchiaino di zenzero fresco appena grattugiato, irroriamo le verdure, disponiamo le capesante in superficie, così, con un po' di bella maniera, versiamo la besciamella, inforniamo, certo, da forno, a calore moderato, ed ecco fatto. Ed estrae dal forno uno splendido timballo dorato, che è una meraviglia. Ne taglia una fetta, la colloca su un piatto, la porge alla scemetta che commenta che fame, e ride tutta contenta, mentre lo scemotto finge di rubare un pezzettino dal piatto cucinato e se lo porta alla bocca con esagerate manifestazioni di entusiasmo. Ecco, non badate alla ricetta, che non credo di avervi riportato la lettera, poi è solo un esempio come un altro. Il fatto è che lui, il cuoco, il maestro, in 4 minuti e 15 secondi apparentemente ha preparato una pietanza di difficoltà spaventosa, e lo ha fatto con tanta disinvoltura che chiunque per un momento ha pensato di essere in grado di seguirne l'esempio. Naturalmente tu sai benissimo che la vita di solito è molto più dura, che ciascuna delle operazioni che lui sbriga con una frase e una zoomata in primo piano a te richiederebbe 3/4 d'ora di applicazione intensa con esito incerto. Che si fa presto a dire prepariamo una besciamella o facciamo aprire le capesante. Ma in concreto non è così facile. Che lo zenzero grattugiato non è cosa di cui si disponga abitualmente, e che tutte le pentole, pentoline, pignatelle che lui ha utilizzato con tanta disinvoltura ingorgherebbero la tua lavastoviglie per almeno 3 settimane. Ma perché protestare? La culinaria, in teoria, è quella che i greci chiamavano una tecne, un'attività insegnabile agli altri mediante una serie di istruzioni operative possibilmente univoche. Ma in televisione nessuno ci chiede di eseguire davvero quelle operazioni. Anzi, a pensarci bene, nessuno dal teleschermo ci chiede mai di eseguire un'operazione qualsiasi, salvo starcene lì zitti e buoni. Quella trasmissione in sostanza ha lo stesso contenuto operativo di un telefilm. Permette all'utente di immedesimarsi in personaggi che agiscono in un mondo migliore e più appetibile di quello in cui si trova ad arrabattarsi lui. Sì, certo. Sarebbe bello domani preparare il timballo di verdure con le capesante in salsa Bornet, come fanno quei bravissimi cuochi, e mangiarselo con la soddisfazione che esprimono pure in quel loro modo lezioso la scemetta e lo scemotto, che poverini non è colpa loro se non sono dei geni, ma sono tanto simpatici lo stesso. Ma tu sai benissimo che non ci riuscirai mai, anche se nell'illuderti di riuscirci hai colto un briciolo di momentanea consolazione. E naturalmente lo sanno anche loro. Tanto è vero che subito dopo la ricetta sceneggiata mandano in onda lo spot dei sofficini.